Sicille. Sicille, che male! Or ti smarrisci e di Orlando ti veni in preda. Orlando, mi fa geloso il suo periglio. È sempre pazzie, mescia pazzie. Scusa, signore, egli folleggia. Io folleggiar. Ostei, qual mentir suole il cuore, ormente il sesso. Così ancora sleal guardarmi in volto. Guardami, Orlando solo. È stolto. È stolto. Udimmi unir sovente le nostre gesta, onde famoso Orlando, e pazzia la salente, se quel nesso. Paneggia certi tempi, mi trasse luce dalla ragione. Compresi bene e senza senno il misero errando. Il sospetto mi dice e questi Orlando. Finger convien. Se senza segno sia, se giusta è l'ira mia, giudice leggo te. Siedi e ascolta. Impesa per le trecce era costei a un alto pino e facea giota ai venti. Ariante, Lucrino, Guldano, Poringo erano contro di lei giusti campioni. Narrarti le cagioni lunga storia saria. Gira l'occhiata un poco agli occhi suoi, son belli è vero, ma non ne troverai certo due altri ladri al par di loro astuti e scaltri. Ed esser buono e misero, scusa, nell'al suonne sospiri danzava l'italiano un ballo in aria e chiedeva pietà a quanti dei già raron nei tempi patria femmini. Io mi mossi pietoso e a confessarti il vero anche amoroso che nel cuor d'un eroe qual sai che Orlando col mantice, col fuoco e il sol farello sta sempre in punto amor come nel tuo. Donna, donna, il fronte mi pare stanno la crudeltà, la tradigione come in propria maggiore senza pagar prigione. O incauto, o insano, e mi darei casi miei. Sfiro il dano e lo abbatto a terra ringo, stendo lo crino al suol. Ad Ariante paradis, paradis, taglia la gamba e fendenti alla testa in questa guisa iara. Fuggo lontano come il semine legger preso la mano. Ferma con quattro colpi tutti quel morti al suol li lascio. Sciolgo costei dal pino e me la metto in groppa. Riglia d'oro, ai ai ai galoppa. Rientra in te stesso. Dove sognasti tanti discogli e tanti? All'altre imprese i cavalieri erranti. Il guider d'onda per la tolta morte, qual credi che mai fosse? A folle, a folle, chi si fida di femmina? Con dolci parolette soavi e con vezzosi finti sguardi amorosi più m'allettò, più m'infiammò, ma poi con inganno inaudito riballa a rammentarlo rossore mi sarà sempre marforo. Mi rubò d'orintana e briglia d'oro. Si accresce il sospetto, il sapere segno. Egli partì. Siam soli. Or sappi, or rea, e non maneggio nos. Poi di vacillo il cuore dovremmo unirsi all'onda del mio pianto. Ah, eccomi, che prostrata al piede giaccio, e mal de ginocchia per colpe tue, dei torti miei. Ma contro donna cavalier non lice, prender dovessi pur una vendetta, vendetta io non vorrei. Odianti Grinda, Ersilla, e l'odio loro faria la tua difesa. Ora sì al rimorso torti poter vorrei, che vendicato da generoso pieno allor sarei.